Sì, noi ti sentiamo, insomma, sentiamo anche che stai proprio vicino al microfono, vicino alle casse, per cui se ti riesci a allontanare un po' è meglio. Allora, un presidio di solidarietà anche a Torino. Raccontaci un po' che cosa, da quanto avete iniziato, quali sono le vostre parole d'ordine e cosa sta succedendo. Beh, le parole d'ordine sono ovviamente quelle di solidarietà, vicinanza e complicità assoluta con i compagni che sono stati colpiti questa mattina da questa operazione che cade, ci sembra, piuttosto a pennello, e ovviamente non solo quella di Roma, ma anche quella di Napoli, anche se, come dire, era legata a un'altra vicenda, sono, come dire, storie e livelli che si toccano drammaticamente, che ci danno, come dire, anche il segnale e il quadro di come stanno reagendo le questure, come sta reagendo il Ministero degli Interni a un inizio di, come dire, di avanzamento del conflitto sociale su dei terreni molto concreti, come sono quelli dei bisogni primari, della riappropriazione di un tetto, di cercare di, come dire, rispondere alle difficoltà della crisi. Sono segnali abbastanza inquietanti, io non credo che dobbiamo vederli in termini di paura o di spavento, di cogliere chissà quale dietrologia dietro, ma sono segnali anche di un potere piuttosto debole, secondo me, rigido, spaventato dai primi accenni di conflitti sociali, che non sanno maneggiare, non sanno interpretare, soprattutto per i quali non hanno nessuna risposta politica. Di misure effettive, non hanno nessun programma per uscire da questa crisi e per dare la risposta a dei bisogni che iniziano a essere espressi da centinaia, da migliaia di persone. E questo è quello che vediamo, la vicenda di Roma collegata a quella di Napoli, ma collegata a tanti altri fatti più piccoli, sono piuttosto significativi. Pensiamo a quello che è successo qualche giorno fa a Giugliano. Sono arrivate anche lì delle misure, firme in questo caso, cose minori, ma per una manifestazione che c'era stata appena 15-16 giorni prima. Lì era la popolazione che protestava contro l'aumento della TARES in uno dei comuni, diciamo, più rovinati dalle nocività dei rifiuti. Ieri c'è stato uno sgombero a Torino di natura totalmente politica, perché era uno spazio abbandonato da più di 10 anni di proprietà comunale, su cui non c'è nessun progetto, con la Digos aggressiva che faceva capire che, insomma, non vi permettiamo di continuare a fare occupazioni, non vogliamo che venga riconosciuto questo percorso politico e quello che significa, anche in questo caso in una città come la nostra, che, insomma, è una delle città dove c'è uno dei numeri più alti di sfratti. C'è poi tutta la vicenda Notav dietro, che ovviamente pesa anche a dietro tutte queste vicende qua, con un uso spropositato, come diceva bene qualcuno domenica all'Assemblea di Roma, con un attivismo inedito di una magistratura che si fa soggettività politica e interpreta quello che la politica non sa, cui la politica non sa dare risposte, cioè al porsi di questioni vitali, basiche, di sopravvivenza, di diritti, e quella è un po' la risposta. Adesso qua, stante la pioggia, insomma, sono arrivata qualche centinaia di compagni e compagni, ci sono molti interventi che si stanno susseguendo. Dove vi trovate? Davanti alla prefettura? Sì, davanti alla prefettura. In questi casi è sempre un po' il posto scelto, che è anche abbastanza, cioè, in una delle piazze centrali delle città. Come al solito c'è una disposizione allucinante, insomma, di ormai camionette, truppe in assetto antisommossa a blindare, insomma, un palazzo. Beh, sicuramente, diciamo, che insomma, le operazioni di oggi, ma anche, diciamo, che anche a Roma nei giorni scorsi c'erano state delle prove di occupazione di altri stabili, eccetera, la repressione e le forze dell'ordine si sono presentate veramente in massa. Sicuramente, insomma, la paura, diciamo, di questo susseguirsi di queste assemblee comunque nazionali, di parole d'ordine che potrebbero unirsi da quelle dei lavoratori, piuttosto di quelle dei movimenti territoriali, il movimento Notav, piuttosto che tutta la questione della casa, che sicuramente è un argomento che ha molta presa a livello poi dei bisogni quotidiani, visto che è uno dei maggiori problemi in un momento di crisi. fa sicuramente paura, e questo diciamo l'operazione di oggi che ha preso sia il mondo del lavoro piuttosto che quello appunto dei movimenti lotta per la casa ne è un po' la prova, senza contare insomma ormai i mesi di repressione a cui è soggetto tutto il movimento no TAV, non ultimo quello della multa che ha dovuto, che si è dovuta pagare, non so quante, insomma sono stati raccolti più di 200.000 euro in pochissimo tempo. Quindi poi la solidarietà insomma è anche abbastanza forte e quotidiana, e le compagne e compagni sono sempre generose, e questo è sicuramente un fatto, è una risposta molto forte. Anche oggi è emblematico che in tutta Italia si è scesi comunque in piazza davanti alle prefetture, da fra un po' andremo a sentire anche Cosenza, insomma Milano e via dicendo. Quindi sicuramente immagino che poi nei prossimi giorni, il sabato c'è questo corteo contro il CIE di Ponte Galeria, ma ci saranno sicuramente dei prossimi appuntamenti nazionali di incontro, e di, visto che c'erano state anche, ci sono anche delle scadenze. Queste iniziative diffuse diciamo lanciate dal movimento No TAV contro appunto questa dimensione abbastanza laboratoriale di sperimentazione di nuove misure repressive, quello che ricordavi tu prima, la monetizzazione del reato così pesante, l'uso spregiudicato di misure cautelari come i fogli di via. Il 22 ci saranno iniziative un po' in tutta Italia, credo che anche diciamo la due giorni prevista a Roma per marzo del 14 e del 15 ha, come dire, un significato in più alla luce di quello che è avvenuto oggi, e poi sicuramente anche tutto il mantenimento dell'agenda che è stata elaborata domenica, il 12 aprile, il 1 maggio da riappropriare sui territori, siano, come dire, passaggi importanti, significativi, su cui non mollare, su cui non tornare indietro. Penso che anche la scelta, come dire, anche dei compagni arrestati sia abbastanza significativa, insomma c'è la volontà di intimorire, di far paura, di coprire portavoce, come è stato anche l'altro giorno con Perino su questo discorso della monetizzazione. Mi sembra, come dire, un modo di operare piuttosto politico, ecco, da parte, certo, della magistratura. Ma come sempre, il discorso che dicevamo prima, la magistratura fa politica a tutti gli effetti. Adesso qua non è che vorremmo citare Berlusconi, però o usare un suo slogan, però, come dire, noi forse lo sappiamo un po'. Sì, infatti non c'è. Infatti poi diciamo che sicuramente tutto questo avviene in un momento particolare politico, in cui non soltanto insomma qui si susseguono, siamo senza governo praticamente, si continuano a distogliere, diciamo così, poi gli italiani da queste fantomatiche non elezioni ma di cambio di presidente del consiglio, quando poi i problemi reali del paese non se ne occupa minimamente nessuno, se non appunto quindi sempre di più uno stato di polizia che controlla la crisi. Il Piemonte è senza regione, insomma in un vuoto di potere molto legato in questo caso insomma al PD, e poi appunto si opera queste forme di repressione così accanite e così mirate. Senti, va bene. Totalmente d'accordo. Senti, va bene. Non ho molto da aggiungere, nel senso che credo che il quadro sia questo, credo che avete molte dirette da fare, per cui un abbraccio forte anche a voi, Luca, ovviamente. A Paolo, Maldia, Ottmani, Federico, spero di non aver dimenticato nessuno, insomma Marco, insomma, e a tutti gli altri colpiti dalla repressione, se vi stanno ascoltando, vi aspettiamo fuori, insomma, per continuare questi percorsi, queste battaglie. Ciao.